Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siccome questo signore ha mostrato delle pulsioni autoritarie che tutti abbiamo potuto avvertire, io dico che non dobbiamo consentire che questo avvenga nel nostro paese. A ruggire Silvio Berlusconi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, almeno ci prova, diciamo, e dice, parlava di Matteo Renzi, questo dittatore, e noi non possiamo permettere che questo accada nel nostro paese. Potrebbe essere uno spunto per i vostri commenti questa sera qui Effetto Notte, sempre attraverso i vostri due canali privilegiati per intervenire qui in diretta, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che quella in realtà è a vostra disposizione in qualsiasi momento del giorno e della notte, e poi i messaggi, gli sms che potete inviare al 349-238-6666. Quindi, come sapete, il venerdì sempre farò un sunto, un consuntivo della politica della settimana, diciamo il meglio della politica italiana della settimana, e parleremo anche di questo. Di nuovo torneremo su Berlusconi, soprattutto sulla legge di stabilità, commenti, critiche, commenti positivi, eccetera. E poi c'è un altro tema che vi vorrei lanciare, sul quale vorrei sentire le vostre opinioni. Sapete che dopo questo secondo caso tragico di uno studente che è morto in gita a Milano con la scuola, era venuto per visitare l'Expo, dopo il caso di maggio, quindi il secondo caso, e si comincia un po' a dibattere su questo tema delle gite, e ci sono dei genitori, associazioni di genitori, che dicono qui bisogna creare un sistema di sorveglianza e poi vediamo, insomma, di trovare le misure giuste, altrimenti dobbiamo rinunciare a questa cosa così bella delle gite. E poi ci sono però anche gli insegnanti, secondo un sondaggio poi di cui vi parlerò, che sono sempre meno quelli disponibili ad accompagnare gli studenti in gita. Voi cosa ne pensate? Mentre la ministra Giannini ha detto escluso che si possano eliminare le gite, voi che cosa pensate di questo dibattito? Quali sono le vostre riflessioni? Effettivamente ci vuole più sicurezza, meno sicurezza, è colpa degli insegnanti? No, sono i genitori che dovrebbero educare questi ragazzi. Come mai? Che cosa succede? Cosa hanno per la testa, insomma? 349-238-6666 per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, anche lì per i vostri commenti. Vi riassumo la giornata e poi un po' per volta entriamo nel cuore di tutti i temi. Manovra Renzi a Radio 24 sfida l'Europa e dice: se l'Unione Europea la boccia, la ripresenterò uguale. Bruxelles non replica e ricorda che emetterà un giudizio entro novembre. Sanità: il Ministero prepara un piano per fermare il calo dei vaccini, smentite le sanzioni ai medici che le sconsigliano. Israele: 4 morti nel giorno della rabbia, incendiata la tomba di Giuseppe a Nablus, e Obama dice Benjamin Netanyahu e Abu Mazen devono cercare di fermare la violenza ora. Migranti: la polizia bulgara spara, ha ucciso un afgano al confine con la Turchia. Giornata mondiale dell'alimentazione: all'Expo Ban Ki-moon e Mattarella dicono siamo pronti alla generazione fame zero. L'imprenditore scomparso a Brescia, sparisce nel nulla anche un dipendente. Emergenza maltempo, una nuova vittima a Benevento, nubifragio su Taranto. Per lo sport, calcio femminile, sullo sciopero indetto dalle calciatrici intervengono esponenti del PD e la Camusso che esprimono solidarietà. E per il calcio maschile un altro scandalo: il settimanale tedesco Spiegel scrive che la Germania comprò voti della FIFA per aggiudicarsi i mondiali 2006. Vedo adesso che la Federcalcio tedesca smentisce. Quindi dal giorno post varo della legge di stabilità, Renzi, ai microfoni di Radio 24, sfida l'Europa che sta esaminando il testo. Non si fa intimidire dall'Europa, anzi il giorno dopo la presentazione della manovra risponde punto per punto alle critiche che vengono da Bruxelles. Il premier Matteo Renzi interviene a 24 mattino. L'Italia ha una sudditanza psicologica con l'Unione. Bruxelles non è il nostro maestro che fa l'esame. Bruxelles non ha nessun titolo per intervenire nel merito delle misure. Può dare suggerimenti, consigli, fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale e quale, e se uno pare non cambia niente. Stupito dalla discussione sulle coperture di una legge di stabilità da 27 miliardi, Renzi preferisce intervenire sul taglio delle tasse. Promette che non ci saranno aumenti di altre imposte dopo l'eliminazione dell'IMU. Le tasse non sono più, come diceva qualcuno, una cosa bellissima. Le tasse, anche detto da uno di sinistra, sono una cosa che in Italia va ridotta, punto. Riguardo all'aumento al limite del contante, spiega, l'evasione è calata per l'incrocio dei dati e misure che abbiamo preso con la fatturazione elettronica. Ma dal PD su questo punto arriva la critica dell'ex segretario segretario per Luigi Bersani. Renzi non insulti l'intelligenza degli italiani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo quali sono le reazioni che arrivano da Bruxelles. We do have a legal basis and all member states have. Abbiamo le basi legali per esaminare le leggi di stabilità e intervenire sulle scelte economiche dei governi. Pur con grande imbarazzo, la portavoce della Commissione europea, Annika Breitart, chiarisce un punto imprescindibile nel fronte aperto dal Premier Renzi con Bruxelles sulla manovra. La stoccata del Premier irrompe nel consueto briefing giornaliero con la stampa. Sotto il fuoco di fila delle domande dei giornalisti, il portavoce della Commissione abbozzano. Non replicano direttamente a Renzi, ma si limitano a ricordare che c'è ancora oltre un mese per analizzare le manovre nazionali, che il canale di dialogo con le capitali è aperto e che a inizio novembre arriveranno le nuove previsioni economiche. Punto. Nessun commento ulteriore, almeno in attesa delle raccomandazioni che la stessa Commissione farà ai ministri finanziari europei sulle singole leggi di stabilità. Sempre in tema di manovra, l'Italia ha precisato nel documento inviato a Bruxelles i costi stimati per l'emergenza migranti, 3,3 miliardi solo quest'anno, metà delle spese per il capitolo accoglienza, quasi il 30% per il salvataggio in mare. Anche questa voce entra così ufficialmente nella grande partita per strappare ulteriori margini di flessibilità in Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Tornando invece alle reazioni italiane, scoppia il caso pensioni. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti frena sulla cosiddetta no tax area per i pensionati, che con ogni probabilità non partirà dal 2016. La misura, che eleva l'esenzione dal pagamento delle imposte a 8.000 euro per gli over 75 e a 7.750 dagli attuali 7.500 per gli altri, è infatti condizionata al via libera dell'Unione Europea all'ulteriore flessibilità del deficit richiesta con la clausola migranti. In assenza di un ok da Bruxelles, dunque, la misura scatterà a partire dal 2017. Quanto ad opzione donna per le lavoratrici con 57 anni e 35 dei contributi, Poletti ha spiegato che è legata ad una clausola di salvaguardia. Se non ci sarà copertura, si potrà allungare la perequazione letta al 2017 e al 2018. Il ministro del lavoro ha quindi confermato la salvaguardia per gli ultimi esodati e il via libera al programma sperimentale di part-time volontario per i lavoratori vicini al requisito di vecchiaia. Il tutto in attesa delle misure sulla flessibilità in uscita delle pensioni annunciate per il prossimo anno. Un rinvio che non piace alla leader CGIL Camusso. Sentiamola alla RAI. E non rinunciamo a quell'obiettivo. Quanto ai 300 milioni, poi divenuti 200 per il pubblico impiego, sindacati uniti nell'annunciare una mobilitazione durissima contro quella che viene definita una mancia e una provocazione. Ancora Susanna Camusso. Il valore del lavoro pubblico per questo governo equivale a 5 euro al mese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo invece di un altro dibattito che riguarda la sanità, che si è aperto sui vaccini. Dovrebbe essere addirittura d'arrivo il provvedimento del Ministero della Salute. Intanto è stata smentita l'ipotesi di radiazione per i medici che sconsigliano i vaccini. Mai pensato di radiare i medici che sconsigliano la vaccinazione. Così, in una nota, il Ministero della Salute mette a tacere le voci secondo cui sarebbero allo studio sanzioni per i medici e i pediatri cosiddetti infedeli. Si tratta in realtà di un'ipotesi avanzata da più regioni e si basa sull'idea che un medico non dovrebbe diffondere informazioni non basate su prove scientifiche. Carlo Gargiulo, di Medicina Generale a Roma. Il medico può arrivare anche a non somministrare la vaccinazione se ritiene che questa vada contro i suoi principi etici. Non può però diffondere un'informazione pericolosa se questa informazione non ha un supporto scientifico. La questione si affianca alla proposta di rendere obbligatori i vaccini ai bambini che vanno a scuola, in discussione nel nuovo piano vaccinale che sarà analizzato il prossimo 20 ottobre in un incontro tra regioni e Ministero della Salute. E comunque, in un momento in cui per le vaccinazioni si scende sotto la soglia a rischio del 95%, con un aumento delle famiglie che non immunizzano i propri figli, è condivisa dagli assessori regionali la necessità di non ammettere nelle scuole studenti non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora ci spostiamo all'estero, in Medio Oriente. È salito a 4 il numero dei palestinesi rimasti uccisi in Cisgiordania e a Gaza nella giornata della collera palestinese. In serata, in un ospedale a Nablus, sempre in Cisgiordania, è morto il 19enne ferito in scontri con l'esercito nel vicino villaggio di Beit Furik. In precedenza erano rimasti uccisi un attentatore a Hebron e due dimostranti. E il presidente americano Barack Obama, proprio in serata poco fa, ha detto che gli Stati Uniti sono molto preoccupati per le violenze in Israele, che condanniamo, ha detto, nei termini più forti, e poi aggiunto: Netanyahu e Abu Mazen devono cercare di fermare le violenze ora e provare a risolvere i problemi ora. Di nuovo in Italia, Expo, oggi si sono celebrate all'Expo di Milano la giornata mondiale dell'alimentazione con la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Applausi, sorrisi, selfie. La folla di Expo accoglie così Ban Ki-moon e la moglie che sfilano tra le vie dell'Esposizione Universale in una giornata particolare, quella dell'alimentazione. Tanti gli ospiti per una cerimonia che cade nel 70° anniversario della FAO. Tema centrale, la lotta contro la fame, che guida tutti gli interventi, da quello del segretario generale dell'ONU al capo dello Stato al messaggio di Papa Francesco, perché ognuno ha la sua dignità, dice Mattarella. La generazione fame zero sta per nascere e noi vogliamo accoglierla. Tre settimane fa i leader mondiali hanno firmato l'agenda 2030 per eliminare la malnutrizione. Ora bisogna passare all'azione, spiega Ban Ki-moon. Su come farlo Padoan lancia la sfida: finanziare i piccoli produttori agricoli e le piccole e medie imprese. Poi il momento simbolo di Expo 2015, la consegna all'ONU della Carta di Milano, l'impegno sottoscritto da 1,1 milioni di persone a risolvere il problema del cibo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca con il mistero dell'imprenditore che è scomparso nel bresciano. Ora si cerca anche un suo dipendente. All'improvviso le scomparse diventano due e il giallo della fonderia diventa più fitto, ma forse si apre una pista nel mistero di Marcheno. 8 giorni dopo la sparizione di Mario Bozzoli nel bresciano si sono perse le tracce anche di un dipendente dello stesso gruppo siderurgico, Giuseppe Ghirardini, uno dei tre ad aver visto per ultimo il titolare quell'8 ottobre prima che sparisse nel nulla. Ma ora nessuno più ha notizie nemmeno di lui. L'ultima era il suo impegno per una battuta di caccia dove non è mai arrivato e poi soprattutto la convocazione il giorno dopo da parte degli inquirenti. E questa non è una coincidenza, nota l'avvocato della famiglia Bozzoli, Patrizia Scalvi. Che la scomparsa potrebbe magari imprimere una svolta a tutta la lettura del quadro. Mi riesce difficile ritenerlo una coincidenza. Quali segreti conosce Ghirardini? Sa qualcosa sulla sparizione di Bozzoli che non vuole raccontare? Mentre le ricerche diventano duplici, si valutano le varie ipotesi, ma a questo punto la soluzione del giallo sembra stare proprio laddove indicato dalla famiglia, nella fonderia, ora sotto sequestro. Per questo si chiede di cercare anche all'interno dei forni, perché siamo materia e spirito, e della materia, sospira un investigatore, ci si può anche disfare. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi sempre per la cronaca c'è la morte, l'indagine sulla morte del 17enne che era in gita per l'Expo a Milano e che è caduto dal 6° piano di un albergo. Si è aperta un'inchiesta per cessione di droga, cioè per capire chi ha dato al 17enne della droga che probabilmente lui ha consumato prima di cadere dalla finestra. Di questo parleremo dopo. Intanto per il maltempo continua l'emergenza al sud, un morto in Campania e c'è Taranto in Puglia allagata. Disagi nella città pugliese, evacuata la sede dell'Ilva. E per chiudere c'è lo sport col calcio femminile a seguito dello sciopero proclamato dalle calciatrici di Serie A. Ne abbiamo parlato ieri per la giornata del 17 e 18 ottobre. 30 parlamentari del PD esprimono tutta la loro solidarietà alle atlete impegnate nella protesta e dice: chiediamo al presidente, dicono in questa nota, della FIGC Carlo Tavecchio di rinviare la prima giornata di campionato. Questo sarebbe un segno importante verso l'accoglimento della richiesta delle calciatrici per garantire loro tutele e pari dignità come i loro colleghi uomini. E sul caso interviene anche la leader della CGIL Camusso, che oggi ha detto: è giunto il momento che nel paese in cui il calcio maschile la fa da padrone anche l'Italia valorizzi maggiormente il calcio femminile. Proprio ieri, se avete ascoltato Effetto Nota, spero di sì, c'era, ne abbiamo parlato con la rappresentante dell'AIC, Associazione Italiana Calciatori, per il settore donne, con Katia Serra, che ha spiegato i motivi dello sciopero. Le questioni più importanti sono una rivendicazione sui diritti. Ricordiamo che siamo ancora dilettanti in tutto e per tutto. Questo significa, cioè, le calciatrici, le squadre femminili di Serie A sono ancora formate da dilettanti, non professionisti come nel caso maschile. Quindi non vivete di calcio, questa è la questione. Esatto, e soprattutto si arriva a un certo punto della propria vita ad un bivio dove tra giocare e lavorare si sceglie ancora il lavoro, perché lì ci sono, oltre che possibilità di viverci, anche le garanzie legate alla prospettiva, quindi previdenza, diritto alla maternità, assicurazioni, tutto ciò insomma che un regolare contratto di lavoro permette. E detto questo, è naturale che nella rivendicazione, siccome vogliamo lavorare per il sistema e non solo per la categoria, si chiede anche alla federazione di investire concretamente sul settore, non solo con promesse ma con certezze scritte, e appunto il non partire nasce dal fatto che dal 6 ottobre dovevano essere scritti tutti gli accordi presi, ad oggi invece ancora questo non è successo, e allora il tempo è scaduto e bisogna purtroppo a malincuore arrivare a questa scelta. Questa Katia Serra ieri sul sciopero delle calciatrici. E per il calcio maschile l'ennesimo scandalo. La Germania avrebbe comprato 4 voti decisivi della FIFA per organizzare i mondiali del 2006. Lo rivela il settimanale tedesco Spiegel, secondo cui sarebbero stati utilizzati fondi neri del comitato presieduto da Beckenbauer. Il numero uno della Federcalcio, Nisbach, ha messo in regolarità per un pagamento di 6,7 milioni alla FIFA, però vedo che la federazione calcio tedesco smentisce questa cosa. Per i mondiali invece di rugby maschili in corso in Gran Bretagna ci aggiorna Giacomo Bagnasco. Eccoci, ciao Giacomo. Qua, ciao Roberta. Allora siamo arrivati al momento del dentro fuori, ai quarti di finale. L'Italia è fuori. L'Italia mi sembra, è fuori, ecco. Dobbiamo dirlo. Diciamolo subito. Domani si giocano Sudafrica-Galles a Londra, Nuova Zelanda-Francia a Cardiff. Domenica Irlanda-Argentina a Cardiff, Australia-Scozia a Londra. Che cosa manca? Manca l'Inghilterra. I padroni di casa sono stati anche loro fuori, eliminati clamorosamente, così come l'Italia. Partite interessanti anche perché sono altrettante sfide tra i due emisferi e rischiamo per questi mondiali in Europa di non avere squadre europee tra le prime quattro. Vedremo. Io intanto ti direi un po' di numeri. Siamo pur sempre la radio del 24 ore, quindi oltre 2,4 milioni di biglietti venduti, cioè il 97% del totale, un record a Wembley come spettatori in una Coppa del Mondo di rugby, quasi 90.000, oltre 200.000 sterline al botteghino, cioè di introiti dai biglietti venduti, 460.000 fan che sono arrivati dall'estero, per un incremento del PIL britannico previsto per 1 miliardo di sterline. Quindi insomma, un certo successo hanno avuto questi mondiali. Anche se la palla non è rotonda, diciamo che è piaciuta, rimbalza comunque bene lo stesso. Grazie Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Ciao, grazie a te. E prima di lasciarci, brevemente leggo alcuni dei vostri messaggi a proposito dell'argomento che vi ho lanciato questa sera, del dibattito che c'è sulle gite scolastiche dopo la seconda morte di uno studente. Dice Andrea da Udine: eliminare i viaggi di istruzione di più giorni, un docente dovrebbe stare sveglio 24 ore su 24, dice Andrea. Poi un altro: vi ricordate sempre di dire che è morto un ragazzo, ma vi scordate sempre di dire che avevano bevuto e fumato, altro che colpa degli insegnanti. Questo non diciamo noi, colpa degli insegnanti. È un dibattito aperto. Siete favorevoli o no eventualmente eliminare le gite, o che misure proporreste? Adesso c'è la viabilità e poi torniamo sugli argomenti. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City. Smau.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Continuiamo con le notizie e con i fatti, piano piano adesso con gli ospiti, man mano ci addentriamo negli argomenti, mentre voi continuate a scrivere i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Qualcuno ritorna sull'accusa di Berlusconi a Renzi che è un copione e che è un dittatore. Berlusca dice solo invidioso perché lui non è riuscito di fare nulla. E continuano i vostri messaggi invece sul dibattito relativo alle gite. Giorgio dice: premesso che è impossibile per un insegnante controllare gruppi di giovani di 17-18 anni tutta la notte, stanza per stanza, per poi essere il giorno dopo freschi e riposati per accompagnarli in visita alle città, se si vuole mantenere la tradizione della gita scolastica dovrebbero togliere la responsabilità civile per la sorveglianza ai docenti. Continuiamo dopo con i vostri messaggi. Adesso vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21 su Effetto Notte, le notizie principali. Manovra Renzi sfida l'Europa qui a Radio 24 e dice: io la riproporrò uguale se la bocciano. Scontro intanto con i sindacati. E Bersani dice: sull'evasione insulta l'intelligenza degli italiani. Venerdì della collera in Israele, in fiamme la tomba di Giuseppe a Nablus. E poi Obama che chiede a Abu Mazen e a Netanyahu: basta violenze, risolvete i problemi. Caos vaccini in Italia sulle sanzioni per i medici. Prima c'è questo annuncio, questa notizia che gira, che potrebbero essere radiati i medici che consigliano i vaccini, poi il ministero invece smentisce e dice che sta preparando comunque un decalogo. Afghanistan, l'Italia pronta a restare un altro anno, così dice Renzi, ci stiamo pensando in queste ore. Poi migranti, la polizia bulgara spara, ucciso un afgano al confine con la Turchia. E a proposito dell'imprenditore scomparso nel Bresciano, si cerca anche un operaio che è scomparso anche lui, era in azienda l'8 ottobre quando Bozzoli sparì. E poi Ban Ki-moon e Mattarella, oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione all'Expo a Milano. E lo scandalo FIFA, la Germania comprò i voti per i mondiali 2006, secondo Spiegel, usati i fondi neri per ottenere 4 preferenze. invece ci colleghiamo con la bella Capri, dove c'è Vincenzo Miglietta in diretta. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Al tradizionale convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Mi pare che abbiano puntato, si è parlato ovviamente molto di legge di stabilità, visto che è stata varata ieri, e mi pare che abbiano puntato anche un po' il dito sulle misure ancora insufficienti per il Sud, Vincenzo, visto sì, che parliamo di Capri. Assolutamente, è così. Devo dire che c'è stata una leggera differenza di linea tra il presidente di Confindustria Squinzi, per il quale comunque è questa una finanziaria che punta a agganciare la crescita e a rendere strutturale la ripresa che è comunque già in atto, e quindi dicevamo una differenza con i giovani, che invece hanno detto si poteva fare di più su due capitoli, nello specifico il taglio delle tasse e proprio la crescita, e soprattutto crescita concentrata per quanto riguarda, Roberta, il Mezzogiorno. Ma restando al tema più importante, che è quello delle tasse, secondo i giovani di Confindustria non andavano tagliate l'IMU e la TASI sulla prima casa, bensì era necessario abbassare le tasse per chi produce e lavora, e quindi era questa la strada di seguire piuttosto che intervenire e rimandare l'IRES al 2017. Sappiamo che eventualmente si interverrà sull'IRES solamente qualora Bruxelles autorizzasse le cosiddette clausole di salvaguardia. Quindi questo è l'appunto un po' dei giovani imprenditori di Confindustria. Grazie Vincenzo Miglietta da Capri. Ciao Vincenzo. Grazie, grazie. Ora invece, come sempre il venerdì, facciamo questo consuntivo della politica italiana della settimana, il meglio della politica di questa settimana. Senz'altro il ruolo da grande protagonista ce l'ha avuto la legge di stabilità, la legge che serve per programmare i prossimi tre anni dell'economia italiana. Per quanto riguarda invece il disegno di legge sulle unioni civili, dibattuto, questo in particolare ci rinnada da qualche mese, ma in realtà è un tema dibattuto da 10 anni, e nonché causa di duro scontro all'interno della maggioranza tra il PD e il nuovo centrodestra, se ne riparla, ha chiarito la ministra Boschi, l'anno prossimo, nel 2016, senza fretta, quindi se tutto va bene. Altre sono le priorità, come ha sottolineato più volte in questi giorni Angelino Alfano. Infatti, a rotta di collo, il Senato, oltre alla sua propria riforma, la riforma costituzionale del Senato del titolo V, ha approvato in questi giorni il disegno di legge sblocca finanziamenti ai partiti, che è la misura urgente. C'è stato poi qualche altro strascico, sempre proprio dei temi di politica di questa settimana, della vicenda Marino. Sia perché sono diventate ufficiali le sue dimissioni, sia perché come ultimo atto ha voluto annunciare la pedonalizzazione totale dei fori imperiali. Poi si è assistito all'addio di Quagliariello, coordinatore del nuovo centrodestra, dal partito stesso, e abbiamo sentito anche qualche nuovo ruggito di Berlusconi, che ha tuonato contro Renzi, dittatore e copione. Ne parliamo come sempre con il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Un sacco di carne al fuoco, però partirei con Renzi, alcuni passaggi sulla legge di stabilità. Fino a qualche anno fa il mondo tirava, l'Italia arrancava. Adesso l'Italia è ripartita, ma il mondo non si sente benissimo, mettiamola così. Non sappiamo che cosa accadrà nei prossimi mesi, le previsioni sui paesi emergenti, sul rallentamento dell'economia nell'Eurozona. Il punto è che va sottolineato con forza: l'Italia è tornata alla crescita. Lo slogan di questa legge di stabilità è l'Italia col segno più. L'Italia col segno più, poi giù le tasse, e poi anche la questione del canone in bolletta, che è un argomento molto controverso. Fabrizio Forché. Ma io innanzitutto ho una protesta da fare: non capisco perché Miglietta debba stare a Capri a convincere e io in redazione a chiudere 10 pagine di manovra. Hai ragione, è lo stesso problema. Potremmo fare una petizione contro raccogliere firme, magari con gli ascoltatori noi, stessi. La legge di stabilità è un momento importante, non solo per il paese ma anche per il nostro giornale, e stiamo appunto chiudendo un altro numero speciale dopo il numero speciale di ieri. Di oltre 10 pagine, perché effettivamente in questa manovra, come spesso capita poi con le leggi di stabilità, che sono comunque appunto provvedimenti molto ricchi, interviene su vari aspetti che riguardano un po' tutti, riguardano le famiglie, riguardano le imprese, riguardano il mondo dei lavoratori, riguardano i pensionati, per cui noi crediamo sia giusto in questi casi uscire dalla polemica politica e cercare di raccontare sul giornale nel dettaglio le singole misure che vanno a impattare nella vita di chiunque, e in questo senso io credo questa sia una manovra da giudicare complessivamente positivamente. Insomma, c'è una riduzione di pressione fiscale complessiva, cioè, o perlomeno anche si evita che aumenti la pressione fiscale attraverso quella clausola di salvaguardia di cui tanto parliamo. Sono 16 miliardi di IVA che erano pronti, tra IVA e accise sulla benzina, che erano pronti a scattare e che con questa manovra non scatteranno. In più c'è un mix di riduzioni sulla prima casa, si è detto, o sulle imprese, che fanno insomma leggere questa finanziaria complessivamente abbastanza positivamente. Senti, allora, i sindacati hanno annunciato una mobilitazione durissima per il contratto della pubblica amministrazione, perché dicono non accettiamo provocazioni, non accettiamo mance, si parla di 5 euro netti in più per gli statali. E poi la CGIL dice una manovra con 4 segni meno: meno libertà per i lavoratori, a partire dal fatto che sulle pensioni non c'è flessibilità, meno lotta all'evasione, meno sanità e meno lavoro e salario. Sulla lotta all'evasione sentiamo la questione del limite dei contratti. Tanti. Noi l'evasione la combattiamo, e la combattiamo innanzitutto all'estero, poi anche in Italia. Lo split payment e quella parte di, diciamo, norme già approvate in legge di stabilità funzionano al punto che abbiamo un gettito maggiore della crescita sull'IVA in quest'anno. Abbiamo un gettito stimato decisamente positivo sia sulla fatturazione elettronica che sulla dichiarazione telematica dei dati. Cioè il meccanismo di semplificazione e di innovazione sta portando a ridurre l'evasione. Fatto positivo, no? Detto questo, noi pensiamo che i limiti del contante, che è giusto che ci siano, in altri paesi non ci sono ma c'è un'altra cultura, debbono essere portati a un livello medio e accompagnati da misure di incentivo alla moneta elettronica. Poi Berlusconi a questo proposito, a questo e ad altri, vediamo se lo troviamo tra i vari passaggi che abbiamo. Berlusconi dice Renzi mi copia, dice, no, quindi a proposito sia del limite dei contanti che altre cose. È successo a me per tutta la vita, a scuola i miei compagni mi copiavano i compiti, adesso Renzi mi ha copiato il ponte sullo stretto, ha copiato l'innalzamento del limite al contante, ha copiato il fatto di non tassare le case che sono una cosa sacra per l'82% delle famiglie italiane, e quindi quando mi copiano sono sempre stato contento. Lui lo copiavano anche a scuola, ma cade a fagiolo però Fabrizio Forché dopo questa dichiarazione di Berlusconi quella di Alfano, che praticamente parla di una manovra di centrodestra. Rispondono i risultati. In questa legge di stabilità noi abbiamo aumentato l'uso dei contanti da 1.000 a 3.000 euro, abbiamo tolto la tassa sulla prima casa per tutti, abbiamo dato sostegni alle famiglie e prima di questo abbiamo ottenuto che vi fosse la eliminazione dell'articolo 18, la introduzione alla responsabilità civile dei magistrati, tutte battaglie nostre. Se poi qualcuno vuole andare con l'ampolla a Pontida vada pure. Quindi Renzi è un copione e ha fatto una manovra di centrodestra, Fabrizio Forché, alla fine? Io ho qualche dubbio che Berlusconi fosse copiato quando andava a scuola, però devo dire che in questo caso ha in parte ragione, insomma, chiaramente anche un po' una provocazione da sua e non rivendicare misure fatte nel passato. Indubbiamente, insomma, l'abolizione della tassa sulla prima casa e l'aumento del limite del contatto sono due tipiche misure in stile berlusconiano che Berlusconi in passato ha adottato. Ridurre questa legge finanziaria sinceramente a questi provvedimenti mi sembra davvero da teatrino della politica italiana al quale siamo abituati, insomma. Però sentiamo un'altra critica, altre due critiche, anzi Brunetta prima di Forza Italia e poi Ruocco del Movimento 5 Stelle. Ha fatto una televendita meglio di Vanna Marchi, ha dato tutto a tutti, non ha dato una sola indicazione di copertura. Questo è un atteggiamento irresponsabile e spudorato. Padoan non ha trovato i soldi per coprire le sterili sparate propagandistiche di Renzi. È sparito il taglio delle tasse per le imprese ed è sparito il testo della manovra. Cosa porterà Renzi in Europa? Quali coperture, Fabrizio Forché? Renzi indubbiamente è un propagandista straordinario e irrita. Anche in questo copia Berlusconi allora, diciamo. Sì, assolutamente, è forse lo scavalca, è più moderno, insomma. Però insomma, quindi si capisce, diciamo, come l'opposizione sottolinei questi aspetti, come dire, certe modo di vendere, infatti si dice anche chi se ne occupa tecnicamente tutti i giorni di questi provvedimenti. Però insomma, appunto, complessivamente le misure in questa manovra ci sono. Le coperture, la polemica sulla copertura è sempre legittima e noi sul Sole 24 Ore siamo sempre molto attenti rispetto alle coperture. Noi però siamo in una fase storica molto precisa, una fase storica in cui dopo 9 anni di crisi, dopo 9 anni di recessione, questo paese si sta incamminando a fatica su un percorso di crescita. In questo momento ogni sforzo, ogni risorsa secondo noi va concentrata sulla ripresa, sul consolidare questa ripresa che è ancora molto fragile. Allora, in quest'ottica portare il deficit, perché poi questo è stato fatto, al 2,2%, aumentando il deficit appunto rispetto, utilizzando la flessibilità europea per uno 0,8%, io credo sia più che legittimo. Siamo abbondantemente sotto il limite del 3%, siamo appunto al 2,2%, è un impegno di spesa, voglio dire, che in questo momento è giusto utilizzare, sono margini che è giusto utilizzare, perché ci giochiamo appunto la forza con cui usciamo da questa crisi. Fabrizio, poi, come dire, ci sarà tempo magari per tornare a fare rigore forte sui conti pubblici. In questo momento è giusto prendersi dei margini in più. Ti chiedo proprio i 20 secondi che restano, usciamo per un qualche secondo dalla politica. Gite scolastiche sì o gite scolastiche no? Sai che c'è adesso questo dibattito, dopo anche il secondo ragazzo che tu hai un bel ricordo. Ho dei figli in quell'età, sì, i ricordi sono molto lontani purtroppo. Mentre invece ho l'ansia di avere figli in quell'età, so anche però quanto i figli sono felici quando mi annunciano che andranno in gita, per cui assolutamente vanno fatte, certo, sperando che ci sia, come dire, un controllo dei professori tale che non succedano questi episodi. Grazie Fabrizio Forché, buon lavoro, visto che tutte queste paginone dello speciale. Ciao Fabrizio. Ciao. E adesso, prima di lasciarci brevemente alcuni vostri messaggi, Emanuele da Vicenza: perché mai eliminare le gite di migliaia di ragazzi e ragazze per colpa di qualche persona? Poi invece Luigi da Padova: le gite scolastiche sono belle socialmente ma debolmente utili culturalmente. Il rischio per la scuola, per gli insegnanti accompagnatori, è troppo alto. Se si vogliono gite che le organizzino i genitori, così si renderanno essi stessi responsabili. 349-238-6666 per continuare con i vostri commenti su questo argomento, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. A momenti ci ritroviamo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberto Giordano con voi con i vostri messaggi sul dibattito sulle gite scolastiche, tema sul quale poi andremo tra poco, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, state scrivendo, sia al 349-238-6666, ma vi ricordo velocemente le notizie più importanti. La manovra, il giorno dopo Renzi a Radio 24 sfida l'Europa e dice se l'Unione Europea la boccia la ripresento tale e quale. Sanità, il Ministero prepara un piano per fermare il calo dei vaccini, smentite le sanzioni ai medici che li sconsigliano. Israele, 4 morti nel giorno della rabbia. È incendiata la tomba di Giuseppe Annablus. Obama dice Benjamin Netanyahu e Abu Mazen devono risolvere i problemi ora. Emergenza maltempo, una nuova vittima a Benevento, nubifragio su Taranto. Europa 24 notte. Il giorno dopo il Consiglio europeo, a poche ore di distanza dalla presentazione appunto della legge di stabilità, Renzi attacca l'Europa e respinge ogni tipo di interferenza sulla manovra. Ma quali reali margini di trattativa ha il governo Renzi a Bruxelles sulla base degli ultimi trattati, quali il Fiscal Compact? L'uscita di Renzi è solo una butada o il premier può effettivamente strappare concessioni a Bruxelles? Sergio Nava lo ha chiesto a Daniel Gross, direttore del Center for European Policy Studies. Naturalmente l'Italia può sempre presentare a Bruxelles la stessa manovra, poi la Commissione farà le sue raccomandazioni al Consiglio e le raccomandazioni della Commissione poi diventano legge se l'Italia non trova una maggioranza qualificata contro la proposta della Commissione, per cui è un gioco molto pericoloso. Renzi dice altri paesi come la Francia, come la Spagna hanno avuto margini di manovra, hanno sforato maggiormente il deficit, quindi se l'hanno fatto loro lo possiamo fare anche noi. Non si rischia un po' il ritorno ai vecchi vizi del passato quando si sforava un po' tutti? Sì, lo dicono tutti gli autisti quando il carabiniere li ferma. Lei è andato troppo veloce, sì, ma c'è un altro che è andato ancora più veloce. Non è una scusa che vale molto. E poi in questo caso il carabiniere è la commissione, che almeno scrive il verbale, e poi il giudice è il consiglio. Adesso si tratta di vedere se Francia e Italia appoggiano la richiesta dell'Italia, può anche darsi che la linea Renzi passi. Se invece non lo fanno, poi ci sarà una raccomandazione formale del Consiglio europeo e a questo punto l'Italia non si potrà tirare indietro a meno che non voglia andare contro i trattati europei. Per capire, a livello di politica fiscale, quindi di tasse, qui l'Italia ha un maggiore potere di discrezionalità, cioè se a livello generale deficit e debito la Commissione indica degli obiettivi e non si può sviare su quando le tasse tagliare, alzare, l'Italia però ha il potere esclusivo di decidere. Un paese in cui i saldi non rappresentano un problema può fare quello che vuole, ma per l'Italia i saldi rappresentano sempre un problema perché il debito è così elevato e il debito non diminuisce come dovrebbe. E l'Italia negli anni passati ha preso degli impegni molto precisi di come ridurre i saldi. Tra questi impegni c'era anche la tassa sulla proprietà immobiliare e l'Italia adesso dice no, non voglio mantenere questi impegni, non valgono più, non lo può fare unilateralmente. Teniamo anche presente che in qualche modo l'Italia, dopo le parole di Renzi che annunciano guerra, però l'Italia da parte sua sta chiedendo anche qualcosa all'Europa, soprattutto per quanto riguarda la clausola di flessibilità sui migranti, oltre alle altre clausole di flessibilità. Lei pensa che l'Europa sarà così accondiscendente? Stando alla lettera delle varie regole fiscali, l'Europa non dovrebbe dare spazio a queste richieste italiane. Questa commissione comunque ha deciso di essere più politica, per cui è possibile che dica sì, vabbè, le regole fiscali sono una cosa, ma poi abbiamo bisogno dell'Italia per la questione rifugiati, per cui chiudiamo un occhio magari tutti e due. Europa 24 notte. Collaborazione con Euronet Plus. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Consiglio per le gite: un hotel con un solo piano. Molto pragmatico questo ascoltatore, e continuate con i vostri messaggi su questo dibattito sulle favorevoli o meno alle gite dopo le due tragedie occorse a Milano. Intanto vi ricordo brevemente le notizie più importanti e poi entriamo nel cuore di questo dibattito. Sulla manovra, Renzi sfida l'Europa e dice: se la bocciano a Bruxelles la ripropongo tale quale. Poi intanto è scontro con i sindacati. Venerdì della collera in Israele, in fiamme la tomba di Giuseppe Annabulus, e Obama chiede sia ad Abu Mazen che a Netanyahu finirla con le violenze e di trovare una soluzione ai problemi. Caos vaccini in Italia sulle sanzioni per i medici, è una notizia che era trapelata oggi per coloro che li sconsigliano, addirittura la possibilità di radiarli, poi però il ministero smentisce. E poi uno scandalo, ennesimo scandalo del calcio: la Germania comprò i voti per i mondiali del 2006 secondo il settimanale Spiegel, però la federazione calcio tedesca smentisce. Dicevo che si è aperto un dibattito su un tema che fino a poco tempo fa era un tema comunque, diciamo, leggero, educativo, pedagogico, sì, però sicuramente ludico, quello delle gite. Poi, dopo che è successo a maggio scorso che un ragazzo che veniva da una scuola fuori Milano, Domenico Mauro Antonio, era venuto a vedere l'Expo ed è caduto di notte, ancora in circostanze misteriose, da una finestra dell'albergo, e poi un altro caso in questi giorni, un 17enne, Elia Barbetti, precipitato dalla finestra durante il viaggio di studio all'Expo, anche lui lui. Improvvisamente si è aperto questo dibattito, ma sono ancora attuali le gite scolastiche? È troppo pericoloso ormai portare i ragazzi? Ci sono genitori, per esempio l'associazione genitori scuole cattoliche, che dice è necessaria una normativa sulla sorveglianza per non essere costretti a cancellare questa bella esperienza come le gite. Poi c'è la madre del ragazzo, Elia Barbetti, Sara Rabà, che ha detto: se gli insegnanti non sono in grado, a parte il suo dolore naturalmente, cioè se gli insegnanti non sono in grado di portare una scolaresca in gita, allora forse non è il caso di andare in gita, perché i ragazzi di oggi non sono i ragazzi degli anni 60. E gli insegnanti stessi hanno paura, perché secondo un'indagine di scuola.net, su 6.000 studenti, sempre meno insegnanti acconsentono a portare i propri studenti in gita scolastica. Uno su tre risponde ai ragazzi: no, non ti porto in gita. Intanto continuo a vedere i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adriana dice: secondo me la colpa è dei genitori, delegano ai professori, ma nello stesso tempo li delegittimano. Non so se mi sono spiegata, dice abbastanza. Maria: gli insegnanti non sono pagati un centesimo per accompagnare le classi in viaggio di istruzione e sono caricati di responsabilità enormi. Perché dovrebbero farlo? Elena dice: gli adolescenti sono imprevedibili in quanto adolescenti, quindi vanno controllati a vista, altrimenti l'alternativa è la soppressione delle gite. Vorrei un parere di Mario Rusconi, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Dottor Rusconi, buonasera. Ma vorrei intanto, diciamo così, correggere un qualche cosa che è stato detto non da lei. La normativa già esiste, non c'è bisogno di altra normativa per quanto riguarda... Quello che chiedeva l'Associazione dei Genitori Cattolici, sì. Insomma, mi reviso un po', perché la normativa esiste, dice che l'insegnante è responsabile del comportamento degli studenti sia in classe, sia durante le visite di istruzione o gite che dir si voglia. Fermo restando che però quando poi l'insegnante dice alle 11, a mezzanotte, quello che sia, ragazzi andate a dormire, eccetera, non è che può fare il guardiano di notte, certo. Queste cose sono, allora, da quello che ho letto sui giornali anche la volta precedente e in volte precedenti, e purtroppo continuerà a succedere anche dopo, è che le peggiori negricure, come diceva la Natalia Ginsburg, come le chiamava, avvengono durante la notte quando i ragazzi stanno in stanza. E da quello che ho letto, questi ragazzi si erano ubriacati, ripeto, notizie di giornale, e avevano preso, sembrerebbe, degli stupefacenti che si erano portati. Non è che l'insegnante possa perquisire gli studenti, è chiaro che i ragazzi vanno educati, vanno formati, vanno portati alle visite di istruzione avendo tutta una serie di indicazioni ben precise, ma non è che possiamo mettere le mani in tasca o nello zaino dello studente. Il problema è un problema anche di, come dire, di educazione familiare, insomma, e questo è fondamentale. Il fatto che poi gli insegnanti comincino sempre più spesso a rifiutarsi di andare in visita di istruzione perché succedono cose di questo tipo e soprattutto non sono pagati, secondo me lo trovo abbastanza conseguente ad un atteggiamento miope delle istituzioni, che hanno deciso ormai da più di 10 anni che l'insegnante che faccia parte di una gita, di una visita di istruzione, sia una specie di San Francesco volontario che quindi fa tutto per il bene degli altri e basta. Tenga conto che durante una gita ci possono essere 15 ore di lavoro per un insegnante, magari quel giorno in classe aveva solamente 2 ore di lezione, oppure avrebbe avuto pure il giorno libero, quindi il pensare che si possa lavorare gratis in questo modo, io dico le istituzioni provino a cominciare a chiederlo ad esempio ad una categoria beniamata come quella degli idraulici o dei dentisti. Quindi insegnanti che devono essere più motivati e senz'altro non possono essere le guardie giurate di notte dei ragazzi, insomma ci deve essere. È evidente, soprattutto una cosa importante che ho sentito, io conosco molto bene il mondo dei genitori, anche il mondo delle famiglie e dei ragazzi, è che le visite di istruzione non devono essere mai la gita. In che senso? Non è un fatto semplicemente linguistico, la gita è quella che è decisa dalla classe, diciamo così, e ci piace andare, professore, alle Ramblas a Barcellona, magari completamente fuori dal contesto diciamo così didattico che c'è stato in classe. Il viaggio va preparato, i ragazzi devono sapere dove stanno andando, che la meta è congruente con quello che è lo sviluppo del programma scolastico. Per esempio alcuni anni fa nel liceo io avevo, parlando con i docenti, chiaramente non imponendo nulla, avevamo detto: negli ultimi anni i ragazzi che fanno anche storia moderna e contemporanea vadano a Cracovia, che è una bellissima città, e poi subito dopo ad Auschwitz, perché hanno il lato artistico, hanno hanno il lato culturale, ma hanno anche il lato storico che si è venuto sviluppando appunto in quel lager tremendo. Solo in questo senso i ragazzi devono avere poi un codice di comportamento. Io ho visto scolaresche in gita, italiane, straniere, eccetera, che dipendevano poi dall'insegnante, nel senso che l'insegnante evidentemente le aveva ben preparati, aveva dato loro dei parametri ben precisi. Quando però poi succede qualche cosa di negativo, non nel caso del povero Lia, mi sembra, perché questo non è più un fatto negativo, è una tragedia, un ragazzo commette un qualche cosa di sbagliato, deve essere in qualche modo sanzionato, naturalmente a livello disciplinare, con sanzioni che abbiano una funzione formativa, non diciamo da riformatorio. Le faccio un piccolo esempio: anni fa una scolaresca del mio liceo stava in Istanbul e telefona alla madre la mattina alle 7:30, mi trova già a scuola perché il figlio aveva trovato sul letto una testa sanguinolante di un agnello mozzato, e essendo in Istanbul si era subito pensato alla forma estremistica. Invece era stato il compagno a fare uno scherzo. No, era un compagno che era andato, sappiamo pure il macellaio da cui è andato, si è fatta mettere la testa sotto vuoto, l'ha portata e ha fatto questo tra virgolette scherzo. Gli abbiamo messo naturalmente un voto bassissimo in condotta, gli abbiamo dato l'obbligo, che poteva benissimo disattendere, ma la famiglia in questo senso ci è venuto incontro perché ha capito, di 15 giorni presso la Caritas a servire il mangiare presso le persone che andavano, e questo è il modo di fare scuola, insomma. La ringrazio dottor Mario Rusconi, grazie del suo parere. Grazie a lei. Grazie, ci risentiamo alle 22.